Quali sono le cose senza le quali non si può vivere in una casa? Il tavolo, ad esempio, è così fondamentale? No. Il divano? Pure. Tappeti, scaffali, sedie, armadi. Tutto questo è superfluo. Quello che serve per iniziare a vivere una casa sono un letto per dormire e una cucina per mangiare. Visto che l'aria per respirare, quella, non è in vendita. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08, oggi è martedì 5 ottobre 2010, sono Matteo Caccia, questa è Radio 24 e io sono qui. Stamattina è uscito un articolo sul giornale che parla ancora di David Foster Wallace. L'avrete capito che ho un'ossessione per questo scrittore che mi è nata recentemente e quindi ve la sorbite tutta. È uscito questo articolo che è semplicemente l'introduzione ad un suo nuovo libro, o meglio non è un suo nuovo libro perché lui è morto 2 anni fa, quindi è l'ennesimo modo con cui le case editrici cercano di fare soldi, cioè ripubblicano lo stesso libro mettendoci dentro qualcosa di nuovo, tipo in questo caso una prefazione, un'introduzione o qualche scritto. Vanno a beccare nel cassetto una lettera e via, subito la nuova edizione del libro, in questo caso Brevi interviste con uomini schifosi, ma quel libro lì esiste già e se non ce l'avete andate a comprarvelo e leggete, anzi andate a comprarvelo prima che esca, così, giusto per fargli dispetto. Insomma, questa è esattamente l'introduzione alla nuova edizione scritta da questa scrittrice che si chiama Zadie Smith, che credo conoscesse personalmente David Foster Wallace. Lei cita una sua definizione dell'amore, che è una definizione che fa un po' venire il magone, quindi ve la voglio leggere. L'amore è la disciplina necessaria a far parlare quella parte di sé capace di amare, anziché quella parte che vuole solo essere amata. Ecco, questa era la sua preoccupazione letteraria, scrive lei, il momento in cui l'io scompare e tu sei capace di offrire il tuo amore come un dono, senza aspettarti niente. In cambio, lei ovviamente ha usato termini più prosaici, quelli di Wallace erano più difficili ma anche più sensati, perché alla fine la cosa fantastica di questo scrittore è che ci metti anni a leggere i suoi libri, non solo perché sono lunghi, ma perché sono proprio difficili, ci devi stare sopra. Se non ce l'avete, andate a comprarvi immediatamente un libro di David Foster Wallace, magari non Infinity Jest, che è 1000 e passa pagine e sembra un po' difficile da affrontare. Per il resto invece vale tutto. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, 800 24 00 24, 349 238 6666, perché non so se David Foster Wallace sia mai stato all'IKEA. Io sì, e lo dico con una sorta di spina nel cuore, perché ci sono stato questo sabato e ho visto scene che credevo non avrei mai più visto. Vi racconto, più o meno 15 anni fa, 35 meno 15, 20, sì, quindi più o meno 15 anni fa, quando stavo ancora studiando, io ho fatto un lavoro che era un lavoro che durava tutto il mese di dicembre di 15 anni fa, quindi parliamo del 1995. Era un lavoro che aveva a che fare con l'intrattenere delle persone all'uscita di un supermercato. In quel periodo io mi ero specializzato in feste per bambini e andavo in giro facendo i palloncini. Avete presente quelli che si gonfiano? Non c'è niente da ridere, Paolino. Presente quelli che si gonfiano e diventano degli animaletti? Ecco, molti facevano gli scout, come Vittoria Mussini, che è la migliore di tutte le assistenti della D24, molti facevano gli scout, io invece facevo i palloncini per i bambini. In quell'occasione mi fu chiesto di fare praticamente intrattenimento alle persone che uscivano da questo supermercato per tutti i fine settimana del mese di dicembre di quell'anno. Non era un supermercato qualunque, era il supermercato del mobile di allora, di 15 anni fa, che era Aiazzone, non so se ve lo ricordate. Era scritto in giallo con lo sfondo nero. Si trovava a Rovato, in provincia di Brescia, per chi non fosse della zona. Da Milano io ci mettevo un'ora e mezza all'epoca ad arrivarci con la macchina che ci avevo. E passavo tutto il sabato e tutta la domenica, compreso anche l'8 di dicembre, quel giorno che era festa, a fare palloncini per le persone che erano lì fuori. C'era con me una ragazza che faceva lo zucchero filato. È un'immagine veramente di peste di morte a ripensarci. Io che faccio i palloncini e questa poveraccia che fa lo zucchero filato a questi signori che escono e non gliene frega niente dei palloncini e dello zucchero filato, perché stanno o separandosi con la propria moglie dopo aver passato un pomeriggio al supermercato del mobile, oppure stanno trasportando sulle proprie spalle 40 kg di librerie e cioè stanno pensando a come caricare l'automobile. Ricordo ancora molto bene quei fine settimana e ricordo anche che pensai: a me questa roba non succederà mai, non lo farò mai, ero sicuro che non l'avrei mai fatto. Poi il tempo passa, le cose cambiano, e ci si fidanza, ci si lascia, si cerca delle case, se ne prendono di nuove e ti tocca comprare i mobili. Qual è il luogo a cui pensi quando pensi a comprare i mobili in quest'epoca, nel 2010? il grande supermercato svedese. Sabato ci sono stato e anche sabato ho visto delle scene magnifiche. 800240024 349-238-6666. Vorrei che le raccontaste voi però le scene magnifiche, perché andare all'IKEA si trasforma da un semplice pomeriggio o un semplice viaggio per acquistare dei mobili in un'odissea, in un momento terribile in cui c'è gente che si separa dal proprio marito, dalla propria moglie, in cui si sfondano tutti quanti le sospensioni dell'automobile perché non si riesce a trasportare, oppure si fanno 500 km col bagagliaio aperto, ad esempio, tenuto insieme da un cordino perché non ci sta quel divano nella macchina, giusto? Oppure si dice, vabbè, ci andiamo una volta, non ci torniamo più, e poi ci torni 15 volte di fila perché ogni volta ti manca un pezzo e ogni volta ti sembra che quella diventi una droga. 800240024 349-238-6666. Pensa che prima è arrivato un messaggio, dov'è? Eccolo qua, su Facebook, che diceva: Tiziana Collu, io vorrei tanto andarci all'IKEA, ma la Sardegna ne è sprovvista. Ma mi sembra impossibile che quei geni ancora non ci abbiano pensato. Io non la conosco, dice Lorenzo, posso dire di non esserci mai stato. Lorenzo, non so se è proprio un bene, Marco, è perché poi chiaramente sono le fazioni. Marco è contrario, ho pensato di costruire un fronte di liberazione. Ma perché? Non sei obbligato ad andarci. 800240024 349-238-6666 per le vostre odissee all'IKEA. Adesso la mia. Matteo, ricordati, l'IKEA ha sempre ragione. Questo è stato lo spirito con cui sabato sono entrato nel supermercato del mobile fai da te. Non ci sono andato da solo. Non ci sono andato da solo perché mi faceva un po' di tristezza e un po' di paura. Ho chiesto ad un amico di accompagnarmi e, visto che non a tutti piace passare un pomeriggio all'IKEA, ho scelto l'amico che per quel luogo ha una vera e propria passione. Si chiama Matteo, ha più o meno la mia età, ha la barba, gli occhiali con la montatura nera ed è un nerd. O meglio, è un nerd ripulito che però, come tutti i nerd, stravede per il computer, per internet e quando parla lo fa solo per dire cose su cui è molto preparato. Il problema è che Matteo è preparato su tutto. È talmente preparato che il suo soprannome è Ferrato. Risultato: parla un sacco. Io e lui ci siamo conosciuti 4 anni fa perché lavoravamo entrambi in una radio di cui non posso fare il nome, perché non è questa qui. Lui sostiene che quando entri all'IKEA devi lasciare a casa le tue convinzioni, le tue ipocrisie e farti guidare da loro. Perché loro sono svedesi e sono i più bravi, oltre che gli unici a fare quella cosa lì. Quindi non pensare di inventarti percorsi alternativi a quello prestabilito, non mischiare i componenti dei mobili in maniera arbitraria, ma soprattutto, se quando monti un armadio c'è una vita in meno o un'ante in più, non pensare che ci sia un errore nell'imballo della scatola. La colpa è sicuramente tua, che non hai seguito le istruzioni e hai sbagliato qualcosa, perché l'IKEA ha sempre ragione. Siamo arrivati verso le 11 e subito mi sono reso conto del mio enorme errore. Non avevo idea di cosa dovessi comprare. Cioè, o meglio, l'idea era semplice ed era drammatica. Avevo bisogno di tutto. Che so, immaginate una cosa di cui si potrebbe avere bisogno per arredare una casa? Ecco, dovevo comprarla. Questo però non era un vantaggio, al contrario. Matteo sosteneva che si devono avere le idee molto chiare prima di mettere piede lì dentro, perché è vero che loro hanno sempre ragione, però cercano anche di fregarti, come fanno tutti, mettendo in bella mostra cose che non ti servono, ma che sono molto appetibili. In più a me succede una cosa strana all'interno dei grandi magazzini. Entro in uno stato di trance che mi appanna completamente il cervello. Non so da dove arrivi. Quello che so però è che si tratta per forza di uno stato alterato di coscienza. Uno stato alterato di coscienza in cui tutti i prodotti si confondono in un grande pastone colorato. Le persone mi passano a fianco come treni in corsa e io divento incapace di prendere qualsiasi decisione. Fortunatamente Bordone era con me e mi ha praticamente trascinato nei reparti che mi interessavano, basandosi su un semplicissimo paradigma, quello della necessarietà. Quali sono le cose senza le quali non si potrebbe vivere in una casa? Un letto, una cucina. Il tavolo è così fondamentale? No. Il divano? Pure. Tappeti, scaffali, sedie, armadi, tutto questo è superfluo. Quello che serve per iniziare a vivere una casa sono un letto per dormire e una cucina per mangiare, visto che l'aria è per respirare. Quella non è in vendita. I can't even have a special offer. guilty personality. Dopo 2 ore là dentro e considerato il mio stato di trance, abbiamo deciso di mangiarci dei tipici piatti svedesi. Lui insalata ai gamberi di aringhe, io polpette di carne con patate scandinave. Abbiamo dovuto stare mezz'ora in coda perché all'ora di pranzo del sabato pare che tutti gli abitanti della zona sud di Milano non vogliano fare altro che venire a pranzo al self-service dell'IKEA. I tavoli però erano tutti occupati, quindi ci siamo seduti a mangiare in una delle cucine in esposizione. Lui non era molto convinto, non era nemmeno molto d'accordo, perché diceva che lo imbarazzava un po'. Poi però, quando ci siamo seduti in una cucina stile country, con le sedie impagliate e il tavolo in legno di abete, ci siamo sentiti immediatamente a nostro agio. E anche le persone che passavano non sembravano poi tanto sorprese, visto che, in effetti, le case costruite dentro l'IKEA sono dei luoghi in cui si potrebbe vivere. Anzi, mentre mangiavamo ci siamo messi a chiacchierare, come se fossimo a pranzo a casa mia o a casa sua. E a me alla fine è pure venuta voglia di comprarmi proprio quella cucina lì, visto che mi sembrava di non essere mai stato così a mio agio in una cucina. Chissà perché non le affittano queste casette finte che hanno costruito qui dentro, secondo me venderebbero ancora di più. Pensa che bello, tu vieni qui e vedi i mobili che comprerai usati da persone vere che ci vivono. Il letto in cui dormirai è usato da una coppia di trentenni, il divano su cui sta seduto un signore che si guarda la TV tutto il giorno diventerà il tuo, la scrivania, quella che ti piace, su cui studia uno studente universitario. Insomma, vedi il tuo mobile vissuto veramente. E invece no, loro preferiscono fare una teca in vetro e metterci dentro un braccio meccanico che apre da 3 anni la stessa antina per dimostrarti che non si romperà mai. Dopo pranzo ci siamo messi di buzzo buono e abbiamo preso quello che mi serviva, o meglio, qualcosa di quello che mi serviva e molto altro, che invece non mi serviva per niente. Però Matteo mi ha detto che questa è un'altra regola di questo posto, che alla fine torni sempre a casa con qualcosa che non dovevi prendere ma che ti piace, e che se non hai comprato proprio tutto quello che dovevi, non è un problema, perché a breve in quel posto avrai di nuovo voglia di tornarci. La cucina me la porteranno loro con un furgone dei montatori, perché mettermi a costruire la cucina con le mie mani mi sembrava davvero azzardato. In compenso ho preso un letto, un materasso, un piccolo divano e una serie infinita di oggetti che ti rendi conto essere inutili solo mentre cerchi di caricarli nel bagagliaio della tua automobile, quando ormai è troppo tardi. Che però, fino a che eri là dentro, ti sembravano dei mai più senza. Fortunatamente Matteo ha una station wagon e quindi il carico è stato piuttosto agevole. Solo al momento di infilarci dentro il divano abbiamo un po' vacillato, perché è l'unica cosa che non si smonta e non si piega. Ci è venuto in soccorso un ragazzo africano col suo gilerino giallo che si trovava lì proprio per quello. Lui ha cominciato a spingere senza vergogna e tra i sedili ribaltati e gli scatoloni impilati, non so come, è riuscito a rincastrarcelo. Non si è fermato nemmeno davanti allo sportello che non si chiudeva. Ha preso una fascetta di plastica e ha fissato il tergirunotto alla serratura del bagagliaio. Ed è passata la paura. E mentre salivamo in macchina, Matteo mi ha guardato sorridente e mi ha detto: perché sono svedesi, hanno sempre, sempre ragione. Ventitré, questa è Radio 24 e questo era un pezzo di un gruppo svedese, perché Bonini non sceglie niente a caso. 800240024 349-238-6666. E di IKEA si parla, delle vostre odissee, visto che qui non sono l'unico ad essere in questa condizione, ma era evidente. Io e la mia ragazza fuori dall'IKEA di Carugate a mangiare gli hot dog e ascoltando il programma. Io ci sono stato 3 volte. È vero che la fidanzata con cui sono andato la prima volta mi ha mollato, ma le altre due volte è andata meglio. E poi ancora, Parchi IKEA di Padova, 3 settimane fa, madre e figlia con divano 2 posti davanti ad una 500. E adesso cosa facciamo? Chiama il papà. Qualche anno fa hanno fatto una pubblicità splendida che poi è stata censurata, scrive Maddi. Ed era, la pubblicità era questo: tu vieni all'IKEA, i bambini ce li teniamo tra le palle noi. Facendo riferimento chiaramente alle piscine di palline in cui credo tutti si vorrebbero tuffare. 800240024 349-238-6666. Alessandra però mi scrive un'altra storia divertente. Lei mi dice: è stata venerdì scorso all'IKEA. mi spiega anche che lei c'è stata perché voleva provare l'omelette con le erbe bio, ma era esaurita. Questa la cataloghiamo nella parte patologia. Ho conosciuto una professoressa che trascorre i suoi pomeriggi lì, al ristorante, mangiando specialità svedesi e scrivendo il suo libro. Mi ha detto che solo lì riesce a concentrarsi e chi la chiama al telefono sente in sottofondo la voce suadente che aggiorna sulle ultime offerte. Sono curiosa di vedere la pagina dei ringraziamenti di quel libro. Sinceramente lo sono anch'io, ma sono più che altro curioso di leggere il libro. 800240024 349 238 6666. Chi era? Era quella di Harry Potter che l'ha scritto in un bar, vero? Sì, mi pare di sì. Sì, mi pare che lei abbia scritto tutto in un bar alla fine. Poi non è così lontano. Prendiamo subito una telefonata, visto che ci sono. Ah, abbiamo gli autori dell'SMS che sono nel parcheggio IKEA in questo momento. Luca e Susi, pronto? Ciao. Come va? Ciao, bene, bene. Dove siete? Ma a Carugate, all'IKEA. Siete qua dietro praticamente? Esattamente. Ma perché andate di martedì pomeriggio? Innanzitutto, cosa fate nella vita per poter andare alle 4:30 di martedì? ride la Susi, eh? Ride perché questa è una delle parti divertenti che siamo entrambi disoccupati in contemporanea. Ma divertenti, scusami, per chi? Beh, divertente per me perché è da luglio che sono in vacanza, quindi è divertente. E cosa facevi fino a luglio, Luca? Ma io sono un ingegnere energetico. Mi sono laureato l'anno scorso, poi ho fatto un master fantastico in una, non diciamo il nome, in una grossa azienda energetica. E quanto gli hai pagato per fare il master? No, mi hanno pagato loro. Ah beh, strano, di solito si tirano fuori questi 10.000 euro. La Susi invece? La Susi invece si è laureata mercoledì scorso in lingue e relazioni internazionali. Ma adesso state andando a vivere insieme? No, in realtà noi andiamo all'IKEA solo per mangiare gli hot dog. E non è una battuta? No, non era battuta. Mi passi Susi per piacere un secondo, Luca? Sì, guarda, qua di fianco. Ciao Susi, in che zona vivete insieme voi due? No, viviamo nel nord-est, io sono di Brugherio e lui di Grezzago. E di dove, scusami, lui? È vicino a Trezzo, un paesino. E venite apposta? Cioè, quanti chilometri fate? Praticamente Brugherio è attaccato a Carugate, no? Ah, vabbè, allora, dai, ma allora non vale. Io prenderla. O passo io dentro l'IKEA e le prendo una dog e glielo porto. Sì. Oppure andiamo insieme. Guarda, io da piccolo facevo la stessa cosa. Andavo a cercare il Burghi che c'era all'autogrill sulla Milano-Torino, all'altezza di Gagliate, perché solo lì c'era il Burghi. Voi andate a pigliarvi gli hot dog all'IKEA di Carugate. Quando è che andate a vivere insieme, ragazzi? Direi che è ora. Iniziamo a trovarci dei lavori. Lei ride. Ma siamo giovani, Matteo, mica come te. Quanti anni hai? 25 io e 22 lei. Oh, bravi, mica come me, che ce ne ho 10 di più. Luca e Susi, ciao, buona giornata, grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao, c'è tempo per un'altra al volo? Sì, andiamo subito a Verona da Michele. Pronto, Michele? Eccolo qui. Ciao, sei qua. Altri due patologici comunque. Chi? Tu o loro due? No, loro due. Ma guarda, comunque è chiaro che l'IKEA ha qualcosa, cioè tira fuori la patologia che c'è in ognuno di noi. Questo è evidente. Tu? Io ho 43 anni, sono un imprenditore del nord-est e vivo in una zona che è praticamente equidistante da Brescia dove ce n'è uno e Padova dove ce n'è un altro. Quindi non sai dove andare. Quindi mi devo sempre dividere a seconda della disponibilità che tu puoi naturalmente controllare sul sito. È chiaro, ovvio. ma esatto. ci sei andato adesso? No, sono andato venerdì scorso e ho fatto una scappata, ho lasciato la figlia più piccola dalla zia, sì. La figlia più grande l'abbiamo portata, io sono uno dei felici, di quei pochi che hanno a disposizione un furgone, quindi insomma mi arrangio per quello che ah, vabbè, quindi sei comodo. Ecco. E cosa è successo invece venerdì? Mi è successo che stavo trasportando un divano incartato nella sua confezione, col carrellino, sì, sì. Mi si è disassemblato l'incarto. E una parte del divano mi è finita sul piede. Ah, perfetto. Mentre lo caricavi o lo scaricavi? No, mentre lo trasportavo verso il furgone. E naturalmente io, sai, i veneti sono famosi come i toscani per cosa? Per il turpiloquio. Sì, sì, sì, chiaro. Esatto. Okay. E fortunatamente c'era poca gente e sono entrato nel furgone. Senti com'è contento. Michele, scusami un attimo, poi ti saluto. Sì, infatti, l'IKEA mette felicità. Che lavoro, che imprenditore sei? Ah, faccio materiali grafici. Produco e commercializzo materiali grafici. Michele, grazie mille e già alla prossima. 800240024, dopo la borsa, io sono qui. Io Io sono qui. Nella foto c'è un uomo di spalle che cammina. È in maglietta maniche corte, bermude di quelli larghi con i tasconi e infradito. È chiaramente estate. Sta camminando verso l'uscita di un piccolo tunnel, tutto dipinto di bianco, che sembra il passaggio tra due case. Per terra ci sono dei ciottoli, c'è un accenno di marciapiede, tutto bianco, il marciapiede, le pareti, il tunnel. E quindi la foto ha l'ingresso del tunnel, in fondo c'è questo ragazzo, quest'uomo che sta camminando, e in alto invece, sopra l'arco, all'inizio del tunnel, c'è scritto «Silenzio, por favor». Quindi direi che è Spagna. O Portogallo, forse. Non me ne sfugge una. O magari America Latina. Comunque è estate e c'è un uomo che sta uscendo da questo tunnel. Lo spero, non solo nella foto, per lui, lo spero anche nella vita. Massimo Corbani, 37 anni, la mia foto è la 144 e io sono qui. O meglio, noi siamo qui. Perché ieri ho caricato tutte le foto che sono arrivate per E voi dove siete e mi sono accorto che erano 144, allora ho scritto, no scusatemi, erano 143, Vittoria quando sbaglio mi guarda con due occhi che temo sempre che mi fulmini, erano 143 Vittoria, e allora ho scritto siamo arrivati a 143, ho continuato a mandarle e lui immediatamente mi ha scritto è 144, io sono qui, o meglio noi siamo qui. Che non, però dalla foto lui è qui perché è da solo, ci sarà stata la sua fidanzata probabilmente o qualcun altro che lo fotografava. Non si è capito dove siamo però, non l'ha detto, giusto Vittoria? Non ce l'ha detto, così, perché non vuole dircelo. Se avete voglia di mandare quelle foto di dove siete voi, di dove vi trovate, dove vi trovavate o dove vorreste essere, Matteo Caccia io sono qui su Facebook oppure io sono qui @radio24.it. Vi dico anche la mail, perché la mail esiste, funziona e perché ho appena ricevuto due foto magnifiche che caricherò appena finita la trasmissione, di un vigile del fuoco che dobbiamo sentire per forza, perché in una foto c'è lui al centro direzionale, credo si chiami, dei vigili del fuoco dove lavora, e nell'altra invece c'è lui con dietro un incendio, con scritto incendio in campagna, io sono qui. Spero che questo lui non sia perseguibile penalmente per averci scattato la foto e avercela mandata mentre divampava un incendio. 800240024 349-238-6666. La mia amica ama le polpette di carne palle di renna e mi costringe a mangiarle spesso. Luigi. Ciao Matteo, io anziché con i mobili ne sono uscita con marmellata di uva spina, il vin brulé e altre amenità. Ciao, parliamo dell'IKEA ovviamente. Ti ricordi la scena di Fight Club di Fincher in cui Joseph Norton passa il tempo sul cesso a scegliere mobili IKEA? Sì. Cosa potrei mai fare senza il mazzetto di matitine rubate all'IKEA? Credo che l'IKEA potrebbe far fallire tutti quanti i cartolai se solo regalasse, a parte che te le pigli, quindi quelle matitine. Ciao Matteo, perché questa pubblicità all'IKEA? C'è una ragione? No Roberto, non c'è una ragione, è che fa talmente parte della vita di ognuno di noi che sarebbe inutile non parlarne, visto che l'ho fatto, ve lo racconto. Io e mia moglie abbiamo visitato tutti gli IKEA d'Italia. Man mano che aprivano, ci abbiamo arredato tre case. Io ve l'ho detto che tutto ciò ha a che fare con la patologia. E secondo me è così. Andiamo subito da Enzo da Treviso, che è lì che aspetta da un po'. Ciao Enzo. Ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie. Io sono di Treviso, 45 anni, ho sposato un architetto. Ecco, e diciamo, sembra l'inizio di un film questo, Enzo. Esatto. E come prosegue? È un film, mi ha riempito di figli, di debiti, di mutui e di case. Cioè, Satana praticamente. Ci sei ancora sposato però, e la ami. Vabbè, ci mancherebbe. Vabbè. Quanti figli avete? Due figli. Vabbè. Ascoltami. Dimmi. Allora, noi ogni tre mesi si va all'IKEA. Ma perché? Un appuntamento fisso? No, perché ogni tre mesi così circa si va all'IKEA perché ci piace passare lì un po' di tempo anche con i figli. Sì. E sono 8 mesi che non ci andiamo circa e quelli dell'IKEA ci contattano e ci dicono ragazzi ma quando arrivate che non vi vediamo più? Ma... Poi mia moglie fa il giro di tutti gli stand, guarda, tira i cassetti, apre tutto, mi fa impazzire. Senti, fammi capire solo una cosa, ma quando ci andate comprate della roba oppure no? Sembra che uno va all'IKEA e esce senza niente. Questo effettivamente. I figli quanti anni hanno? 8 e 10 anni. Ah, quindi non li sbolognate lì all'ingresso? Sì, qualche volta sì, ma ormai ci hanno preso gusto e tante volte invece ci chiedono per favore lasciateci a casa. Ah, guarda, pensa quando loro saranno libere di andare da soli a giocare all'IKEA, che meraviglia. Enzo, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie a te Matteo, ciao. Ciao. Andiamo a Firenze da Alli, che mi piace il titolo, donna, giusto Alli? Sì, sono Olli però. Ah, ok, allora hanno scritto male, perché ho detto Olli tra parentesi donna. Sì, sono una donna, sei mi una chiamo Olli, sono di Firenze e io vivo all'IKEA praticamente. In che senso? No, cioè che io sono una dipendente, mio marito e la mia famiglia sono disperati perché io so a memoria i nomi delle cose. Ma sei una dipendente adesso che lavori all'IKEA o sei dipendente dall'IKEA? No, sono dipendente di acquisto all'IKEA, cioè, io telefono a mio marito per esempio e gli dico, sai, ero qui all'IKEA e la prima cosa che dice mio marito fa, Olivia, non abbiamo bisogno di niente. Bravo, ma quindi allora abbiamo scoperto che Olli sta per Olivia innanzitutto, sì, non abbiamo scoperto però che lavoro fai che ti permette di passare tutta questa vita all'IKEA. No, allora io faccio l'informatore medico scientifico. Anche tu? Ma quelle che passano davanti al medico? Sì, no, io vado dai grullari, vado solo dagli psichiatri, quindi vado in ospedale. Da chi però... vai, scusami? Come? Come li hai definiti? Grullari. Cioè? Dai grulli. No, a Firenze si dice, le persone che non sono tanto in testa si chiamano grulli. Sai cosa, Olli? È che io so che voi a Firenze vi considerate la culla della lingua italiana, è tutto nato lì, è tutto nato a Firenze. Però in realtà tu devi sapere che fuori da Firenze esiste un paese che si chiama Italia, che non parla proprio quella lingua lì. Sì, è vero, noi siamo nella culla della lingua e della Firenze. Sì, amo, come se tutti gli italiani parlassero così come parlate voi, peraltro. Quindi, Bellino, a Modino, no? A Modino, esatto. Quindi i grullai sono gli psicologi. No, si dice grullo, una persona che non ci sta tanto con la testa, no? Per cui cura i grulli sono i grullai. Olli, non fa una piega. Grazie mille, alla prossima. Ciao, buona giornata. Andiamo a Parma da Roberto. Pronto, Roberto? Eccomi, sono qua. Eccoti qua, io sono qua, quindi siamo in due. Allora, premesso che intanto sto andando all'IKEA adesso. A fare cosa alle 4:40 del pomeriggio? Sono sul pezzo come pochi. Allora, per tutto è cominciato circa 20 giorni fa, quando sono andato per comprare un'enorme libreria per casa mia. Premetto che io sono un frequentatore assiduo di lungo corso, cioè sono almeno 10 anni che io vado sistematicamente all'IKEA. Ci ho già arredato 2 case e 3 sedi del mio ufficio, quindi... Però. Credo di avere i gradi almeno da sottufficiale. Quindi di fatto è un passatempo. È più che un passatempo, una vera necessità. Comunque sto andando oggi per comprare degli scaffali che mi mancano per questa libreria, perché un'altra delle cose belle è che tu vai lì che programmi tutto, poi quando sei a casa scopri che manca qualcosa. Che ti manca qualcosa oppure hai voluto espandere. Comunque io vi ho chiamato perché credo di avere una storia veramente più unica che rara da raccontare. Quando 20 giorni fa sono andato all'IKEA per questa libreria, siccome avevo poco tempo, quindi avere poco tempo vuol dire che prevedi già che ci starai non più di 4 ore e mezza. Sì. Mi sono preparato accuratamente, siccome sapevo che dovevo sfacchinare con questa libreria, mi sono vestito... in modo da non patire. Roberto, tu mi prometti che tra poco arriva la parte interessante della storia, vero? Sì, una vecchia t-shirt e un paio di jeans normalissimi. Sì. Arrivo all'IKEA, sono appena entrato e una signora mi chiede dove sta il reparto cucina. Io gli dico, guardi, più avanti, segua le frecce. Perché sei un esperto, quindi lo sai. Vado per le mie e un'altra coppia mi chiede dettagli sulla libreria Billy, che è una famosa... Come no, la Billy, certo, chi non la conosce? Tutti conoscono. Quindi tu cominci a capire che c'è qualcosa che non va, Roberto. Esatto. E che cos'è? Arrivato alle 3 del pomeriggio, ho uno scontro frontale. Già queste scene si erano succedute varie volte. Arrivati alle 3 del pomeriggio, ho uno scontro frontale con un signore che mi chiede le misure di un tavolo. Io gli dico, guardi, non lo so, c'è il cartellino, si lega. Roberto, guarda, davvero, tu sei carinissimo, però devi arrivare alla fine perché sono le 4:42 e io tra un po' chiudo, se no devo andare avanti fino alle 5. Roberto. Ho scoperto che siccome mi ero messo una maglietta gialla, tutti pensavano che io fossi un dipendente dell'IKEA, robe da pazzi. Roberto, ho capito, quindi la questione è quella della maglietta gialla. La maglietta gialla. Guarda, stavo già sudando, temevo chissà cosa, invece solo una maglietta gialla. Ti ringrazio Roberto, buona giornata. Andiamo a sentire l'ultima telefonata che spero abbia una storia interessante sicuramente, ma non come quella di Roberto, che è quella di Francesco d'Arezzo. Pronto Francesco? Sì, pronto. Come stai? Bene. La mia storia non so se è più interessante o meno, ma insomma... Ma chi se ne frega, basta che sia una storia. All'IKEA, sì? siamo rimasti fermi con il furgone preso in prestito dentro una galleria, con quindi rischio evidente, decisione conseguente, crocione sull'Ikea, mai più. Mai più. Ma era non era la prima volta che ci andavi, però. No. Ma senti, ma se quando decidi di non andare più all'Ikea, dove li compri i mobili poi? Piuttosto te li costruisci. Francesco, grazie mille. Ciao, alla prossima. Niente, ciao. Ciao, grazie. Sentendoti raccontare di quando caricavi l'auto, mi sono commosso. Non è uno scherzo e il motivo però mi sfugge. Questa è la conferma che quel posto ha a che fare con i grulli e con i grullai. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini. Oggi mi sono tagliato 4 dita, ho montato 4 mobili, ho seguito pedissequamente le istruzioni, ma soprattutto ho capito che loro hanno sempre ragione. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?